Se já esposou a da Gebregolienti, se já esposou a da. Tante della preiezza cadarre terre bambanzella chiazza, rabbaseata. Arribambanzella chiazza, rabbaseata. I fred sanno sentuta di senura, gettano colpe se, di fare mura, gettano colpe se, di fare mura. Che gai bregaglio mia casa è ferita, ero sangue da giunta allo sperona. Rosang ta da giunta lo sperona. Vede che gente venite qua tu qua ta caie ye vevna ta preparada. Caie ye vevna ta preparada. Tutte le gente ieve che traside sulle bregoglio mio, non vega mai, sulle bregoglio mio, non vega mai. Te che nara mia tu trase tu, ne bregoglio ieda lì, taglie che riposa. Bregoglio che da lei taglia che riposa. Tutte le gente pigliano beccherine sulle bregoglio mie, non so piglia mai. Te che nara mia tu pigli tu, ne bregoglio che da lei taglia che riposa. Bregoglio ie da lei, taglie che riposa. Tutte se pegni case duce, sulle bregoglio mie, non si piglia mai. Sulle bregoglio mie, non piglia mai. Te che nara mia tu pigli tu, ne bregoglio ie da lei, taglie che riposa. Bregoglio ie da lei, taglie che riposa. Te che nara mia cacita veste, pettia sanno finiti tutte le feste. E poteva sanno finite tutte le feste. Te che nara mia cacciato busta, e poteva sanno finita ogni giorno agosta. E poteva sanno finita ogni giorno agosta. Te che nara mia cacciata niente, traditura non sto a dirita ai fratelli. E la traditura non sto a dirita ai fratelli. Con 30 si è carrozza giovenuta, con 37 meni buona. Ecco 37 meni, voglio ieri.